Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sì, ma anche di Alessandro Marco Tulli, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, di Edoardo Lavezzari, nuovo acquisto in redazione, perché anche noi facciamo mercato d'inverno. Come stai, Pierluigi Pardo? Bene, tu? Io molto bene. Molto bene, in grandi condizioni, sono pronto, ho anche messo una sorta di elmetto per perché magari potrebbe essere un giorno da polemisti o da dietrologi di lunga militanza, no? Li ha innescati Cruciani l'altro giorno, non so se poi arriva con la sentenza del giudice sportivo, che evidentemente Gasperini è stato sentito una giornata per l'espulsione e una per espressioni ingiuriose, Oddo è stato intercettato, quindi scritto a referto una giornata di squalifica, Allegri immacolato, non lo ha sentito nessuno, e qui è chiaro che il giudice sportivo applica il codice, cioè era, questo era scritto sul referto, però adesso agli etrologi diamo un numero di telefono, 800 24 0024 è il numero verde. Sì, beh, questa è una congruenza, no? Nel calcio di oggi con 700 telecamere si vede più a casa. Io ho visto per esempio l'immagine di Allegri, se fosse andato a casa il quarto uomo probabilmente non sente, perché gli insulti, diciamo, peggiori Allegri mi fa andando via. E quindi io credo alla buona fede del quarto uomo e del referto. La verità però è che c'è un'incongruenza, perché sicuramente nelle case dei milioni di italiani le cose sono apparse con più chiarezza, no? di quello che poi sente un quarto uomo o un delegato della Lega allo stadio. Questo va detto al termine di una partita, lo diciamo per onestà intellettuale, nella quale la Juve ha avuto un paio di episodi arbitrali sui quali c'è quantomeno da discutere. Sì. No, questo lo diciamo perché sennò... No, per la cronaca, per la cronaca. Se Fiorentina-Juve dovesse passare la storia come la partita nella quale la Juve è stata aiutata, se non sarebbe sbagliato. È una partita nella quale ci sono stati due episodi arbitrali sui quali si può almeno discutere, che sono appunto la gamba alta di Berardeschi e il rigore che secondo me non c'era, però comunque è discutibile per la Juve nel finale. Quindi insomma, come spesso diciamo, pensare alla malafede è assurdo. Certo, indubbiamente poi uno guarda il labiale di Allegri che va via così e pensa, pensa a una disparità di trattamento. È abbastanza curioso quello che è successo, perché è successo tutto nella stessa giornata. Con Inzaghi, con Gasperini, con Oddo e con Allegri. È stata una sorta di giornata di ribellione e dialettica fra allenatori e arbitri, fra allenatori e quarto uomo. E è chiaro che insomma, ovviamente qualcosa che non va c'è, ma è oggettivo, perché se il giudice sportivo segue unicamente la testimonianza di quelli che sono in campo, diciamo, questi sono i regolamenti, cioè, certo, il giudice sportivo non esiste una prova televisiva, il giudice sportivo quindi, si basa le sue sanzioni su quanto c'è scritto nei referti. Io non ci vedo niente di male da un punto di vista formale. È chiaro che dal punto di vista di sostanza qualsiasi persona può dire: perché Gasperini deve pagare e Allegri no? Sì, poi hai ragione, per le strane stelle che governano il calcio, tutti questi episodi succedono praticamente in contemporanea comunque nella stessa giornata, ma tu vedi gli allenatori particolarmente nervosetti, cioè è anche normale che in campo si possa parlare, accade in tutti gli sport, che ci siano dialoghi normalmente civili, ma qualche volta anche no, tra gli allenatori e gli arbitri. Sì, certo, poi... Guarda, io in generale la suscettibilità in campo secondo me non è il massimo, no? Ma questo riguarda secondo me anche in generale i comportamenti dei giocatori, cioè secondo me esiste una differenza proprio di categoria morale e di gravità fra gli interventi fallosi, soprattutto quelli pericolosi, e gli insulti. Alla fine gli insulti sono una roba certamente non piacevole, però insomma... spesso invece gli insulti vengono colpiti proprio perché sono più chiari, più definiti, più visibili, con più gravità e con più severità rispetto a episodi invece di gioco fallosi. Sì, poi io ti dico, alla fine apprezzo l'arbitro che nei limiti del possibile o si gira dall'altra parte e fa finta di non sentire. Però, perché la storia del calcio, cioè, ogni squadra ha avuto sicuramente il suo episodio, il suo giocatore che che qualche volta ha sbroccato come diciamo noi a Roma e non è stato punito. È arrivato Cruciani, eh? È arrivato il signor Cruciani. No, no, ho sentito prima. A mettere pace tra tutti noi. No, ho sentito prima in macchina che il signor Genta ha detto Cruciani ha innescato. Innescato. Sì, ho detto qualcosa di sbagliato. Come al solito, per il mio straordinario intuito, anticipato una polemica che poi sarebbe scoppiata. Questo è l'istinto, eh. Beh, certo, che riguarda l'istinto per la polemica del signor Cruciani. Che riguarda la questione di Allegri. Cruciani è in grado, guarda, Cruciani potrebbe essere in grado di scatenare una rissa in un bar di Hanoi, che ne so, in Vietnam, nel sud-est asiatico, piuttosto che in qualsiasi posto del mondo, a distanza di migliaia di chilometri. Cruciani, con la sola forza del pensiero, lo chiamano Zizzani a Roma. E potrebbe essere anche in altri modi, sì, devo dire che, devo dire che, però questa era facile, dai. Ho capito, sì, questa era facile. Devo dire anche che Pardo riesce anche a sopire invece le situazioni più esplosive. Per esempio, quando il signor Mughini l'altro giorno, cosa che io naturalmente ieri ho ripreso puntualmente, ha fatto scoppiare una bomba su Napoli, lui non è, diciamo, andato a fondo alla cosa, non ha alimentato il fuoco della polemica. E tu cosa ne pensi di questa bomba su Napoli? Ragazzi, io Mughini per me è intoccabile. Dunque, ha detto una cosa che in realtà non ha detto nulla contro Napoli, ha semplicemente detto che purtroppo Napoli oggi, per i problemi che ha la città, eccetera, eccetera, ha un'identità legata soprattutto al calcio. Cioè, ha detto una cosa, io magari non si può condividere del tutto, ma non ha offeso Napoli. L'offesa a Napoli! Non c'è nessuna offesa, cioè, non c'è alcuna offesa. Semplicemente ha detto che ha un'identità calcistica oggi che purtroppo non ha in altri campi, e su questo non c'è dubbio. Cioè, meno male che Napoli non è identificabile per altre cose peggiori di cui si potrebbe discutere. Allora, Mughini, traffico, torniamo. Detto che a parte l'identità calcistica in questo momento Napoli, ahimè, non ne ha tante di identità, purtroppo. Tutti convocati. Allora, Giuseppe Cruciani, c'è anche Pardo collegato. Da dove vuoi partire? Da Mughini, che dice Napoli identificabile. Ho già detto calcio, su questo già detto. D'altra parte, credo che fosse Auriemma in sottofondo che diceva poco altro. Dunque, diciamo, il napoletano Auriemma dava ragione a Mughini su questa cosa. Eppure ieri sui media, sui social, ma anche... No, Auriemma non gli dava ragione. Stava dicendo, questo qui credo che il pezzettino che abbiamo sentito era una ripetizione di quello che era successo prima. Auriemma aveva politizzato con Mughini proprio per questo, no? Per il poco altro. In realtà secondo me è divertente la cosa di Cruciani, nel senso che penso siamo anche amici e ci vediamo bene anche per questo, perché veramente su tante situazioni abbiamo un approccio completamente inverso, anche sulla polemica dei magistri italiani. Io sono pronto a fare il Kofi Annan, nel senso, poi penso che ci siano dei progressi oggettivi della città di Napoli, ma sono oggettivi, non è che lo dico io perché voglio fare il bonista, perché è vero, lo scorso anno è stato un anno boom da mille punti di vista, dal turismo alla crescita, a una serie di aziende importanti. Ho citato Apple l'altro giorno. No, ma però Mughini parlava di un'altra cosa, non è che parlava di Napoli bene o male, ho detto parlava di una cosa che è anche un po' filosofica, no? Alla Mughini. C'è l'identità di una città che oggi si ritrova in Maradona, nel calcio e in poche altre cose. Cioè, non mi pare che abbia detto una bestemmia nei confronti di Napoli. Si ritrova in De Filippo, si ritrova in Totò, si ritrova in Però allora Roma in che si trova? Torino in che si ritrova? Milano in che... Cioè, voglio dire, ogni città secondo me ha una sua identità e una sua anima. Vabbè, ma andiamo su Allegri, dai, forza. Andiamo su Allegri. Io credo che non essendo napoletano ma frequentando lo stesso, io credo che sicuramente a Napoli ci sia un po' di sensibilità in più, e questo lo dicevamo. No, ma un'ipersensibilità, diciamola più chiara. Sì, un'ipersensibilità. Cioè, basta che tocchi Napoli, dici una cosa contro Napoli e ti aggrediscono. Sì, questo è in parte vero, ma lo abbiamo imparato. Io andrei invece su due diversi approcci, mentre saluto anche Tiziano Pieri. Ciao Tiziano. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao. Allora, c'è oggi il commento di Alessandro De Calò sulla Gazzetta, che insomma è sottilmente ironico. Se prendo una multa perché ho lasciato la macchina in seconda fila, poi scopro che poco lontano dalla mia un'altra auto, anche più ingombrante, è messa male e non viene multata, che cosa faccio? Mi arrabbio, può darsi, vado dal vigile, eccetera, eccetera. È chiaro che questa disparità di trattamento, come diceva Cruciani, tra allenatori un po' nervosi, che domenica abbiamo visto tutti, documentata dalla televisione, ma evidentemente non da tutti i referti arbitrali, fa discutere, perché adesso cominciano i tam tam, Allegri graziato, campionato falsato, la butta, questa è una stupidaggine. Esattamente. Ma che c'entra il campionato falsato? Daniele, io ho detto Bologna. Semplicemente una cosa, guardando le immagini e non i referti sono un'altra cosa e sono fondamentali. Qualsiasi italiano collegato alla televisione che abbia visto i replay, e ovviamente non è a conoscenza dei dettagli dei referti, vede un allenatore, a me non mi interessa che sia Allegri, che sia Pinco Pallino, che sia della Juventus, del Milan, eccetera, vede un allenatore che si scaglia in maniera molto virulenta, direi anche furibonda, nei confronti del quarto uomo. Non mi interessano nemmeno i motivi, e mi interessa anche poco la frase il labiale, perché evidentemente se gli ha detto delle parolacce, il quarto uomo non ha chiamato l'arbitro per farlo cacciare, o non l'ha detta o non l'ha considerata offensiva. Però è un fatto, questo l'hanno visto tutti, che Allegri si scaglia contro il quarto uomo. È evidente che il quarto uomo doveva chiamare l'arbitro e cacciarlo, punto. Come è successo in altre situazioni, che il fatto che non l'abbia fatto, io non lo so, cioè non credo che ci sia, che perché era Allegri, come pensano molti, io non lo credo, però è un errore secondo me, punto e basta. Tiziano? È un errore che racconta, Giuseppe, l'assoluta disparità di forza in campo che c'è oggi fra un referto che si basa sulla testimonianza diretta di un quarto uomo, che in uno stadio dove ci sono 50.000 persone che urlano, fischiano, rumoreggiano, mille voci che si confondono, e la forza dei mezzi televisivi che hanno documentato con chiarezza il fatto che lei, poi il labiale è chiarito. No, ma il labiale non è nemmeno importante, perché è lo stesso, il fatto stesso che lui si scagli in maniera così forte contro il quarto uomo, in maniera quasi aggressiva, doveva portare il quarto uomo, il quale è chiaramente impaurito dalla faccia che si vede tutto, cioè doveva portare il quarto uomo a richiamare l'arbitro e dire: guarda, questo qua mi sta rompendo eccetera eccetera, caccialo. Questo doveva succedere, perché gli allenatori vengono cacciati per molto meno. Tiziano, questo... Pieri, è vero? Ma allora, io sono d'accordo, credo sia Giuseppe Cruciani. Sì, che sì, parla. Ciao. Io sono d'accordo proprio con tutto quello che ha detto. A me cosa non è piaciuto assolutamente è stato quel gesto che ha tirato giù il braccio al quarto ufficiale di gara di Liberatore. Di Liberatore è una persona eccezionale, ha avuto anche problemi extra calcistici con una malattia, è riuscita a vincere e a sconfiggere questa malattia, quindi è una persona che ritengo molto intelligente e preparata dal punto di vista arbitrale. E in questo caso ha sbagliato, a mio modo di vedere, perché non può accettare un confronto che va sopra le righe da parte di un allenatore, che si chiami Gasperini, che si chiami Mourinho, che si chiami Juric, chiunque è l'allenatore che sbaglia e va sopra e non rispetta più la figura dell'arbitro va sanzionato. Facciamo chiarezza, i regolamenti ci sono e vanno applicati, quindi se l'arbitro non ha sanzionato, nessuno si deve stupire se il giudice sportivo non ha poi squalificato. Pieri ha ragione al 200%, cioè è evidente che lui non ha, nel referto non ha scritto nulla, se avesse scritto si sarebbe contraddetto. Avere scritto mi ha detto testa di cazzo, scusa, perché non hai chiamato l'arbitro, non l'hai fatto cacciare? È evidente che quella roba lì non c'è scritta nel referto, né c'è scritto che ha avuto un comportamento offensivo, perché altrimenti avrebbe dovuto richiamare l'arbitro subito. Nel referto non c'è scritto praticamente nulla, e quindi è un errore e la chiudiamo come un errore. Ma certo, no, ma un errore. Al termine di una partita, lo dico onestà, non è che bisogna fare sempre giustizia, però al termine di una partita nella quale sicuramente non c'è stato un atteggiamento malevolo, cioè benevolo nei confronti della Juve. Ma infatti quindi cioè... questo per capire com'è il fumo, che è stato un ulteriore errore in una partita. No, diciamo che ha fatto anche scalpore Tiziano, ha fatto scalpore perché nella stessa giornata due allenatori vengono cacciati, lascia perdere poi la squalifica di Gasperini perché c'è la reazione è legata, successiva. È legata, le due vengono giornate cacciati sono legate oggettivamente per cose molto, molto meno gravi, almeno dal punto di vista estetico di quello che vediamo rispetto a quello che abbiamo visto di Allegri, o sbaglio Tiziano? Non lo so. Ma io credo che sia anche la reazione di Gasperini è veramente totalmente sbagliata, esce fuori mondo insultando anche lui, quindi diciamo che io li metto poi alla fine più o meno sullo stesso piano, cambia poco. Io non sono esperto di labiale, sono esperto di fatti arbitrali e soprattutto di atteggiamenti. Nel momento in cui mi si pone una persona in quel modo e devo sanzionarla, perché se no sbaglio e devo fare il mia culpa quando mi rivedo in maniera pesante e devo migliorare la volta dopo. Però facciamo chiarezza una volta per tutti. quali sono, anche per dare alla gente che ci ascolta, come viene sanzionata, perché credo che sia importante, la prova TV viene solo sanzionata o su segnalazione del procuratore federale. Ma sì, ma in questo caso la prova TV nel confronto di Allegri è ridicola, non aveva non senso. Poteva essere presa in esame perché sono solo tre i fatti che vengono presi in esame dalla prova TV, fatti violenti, quindi che sfugge al controllo dell'arbitro, fatti antisportivi, una simulazione, un gol di mano, e il terzo è la bestemmia. Quindi se Allegri non ha bestemmiato non poteva essere sanzionato, quindi qui per una volta dobbiamo tirare fuori il procuratore federale e il giudice sportivo Mastrandrea, che hanno applicato il regolamento. Sì. A mio modo di vedere, in questo caso ha sbagliato. È esclusivamente di liberatore. Devo dire una cosa. Anche la vicenda Mikhailovic, forse in questo caso se è qualcuno... più genuina, però. Sì, è più genuina. Però se qualcuno ha visto, cioè se qualcuno ha visto, se un quarto uomo o un arbitro vedono una reazione in cui un allenatore esce dal campo e spacca un cartellone, cioè un calciatore se spacca un cartellone viene poi punito. Sì, ma infatti quello è stato sanzionato molto probabilmente. Perché? Adesso non lo so, non credo che abbiano dato una multa. No, ma quello infatti è corretto. È stato sanzionato. Quello che volevo dirvi ancora, un ultimo giro di parere, quanto scrive Casarin, che si concentra non tanto sulla cornice della questione, cioè gli insulti agli arbitri, eccetera, quanto sul quadro che dipinge Allegri, cioè dice abbiamo giocato troppo poco, in Italia si gioca troppo poco, e Casarin con questo se la prende e torna a proporre il vecchio discorso, se poi entra anche la VAR, quanto tempo si finisce per giocare, del tempo effettivo. Sì, ma questo io trovo che sia un discorso veramente vecchio che facciamo noi in Italia, cioè noi abbiamo paura che le partite durino 110 minuti, ma chi se ne frega? Cioè io prendo sempre il modello dell'America, l'altro giorno giustamente citato da Pardo a proposito dei calci e degli specialisti, no? Erano il discorso che si riferiva a Pjanic. Quale paura abbiamo? Cioè, innanzitutto sarebbe un vantaggio per, adesso lo dico per le televisioni, ma mi pare evidente il vantaggio, cioè più si resta davanti alla televisione, più una partita è dura e più vantaggio c'è per tutti. Ma al di là di questo, che un vantaggio può essere della televisione, secondo me anche di chi guarda la televisione. Ma qual è il problema se una partita dura invece di 96 come dura adesso, 97, 98, se dura 110, perché effettivamente una squadra l'ha tirata così, l'ha messa in caciara o comunque... Il gioco effettivo un po' va salvaguardato, cioè un minimo va salvaguardato. Ora, ci sono delle partite che effettivamente alcuni tempi durano troppo poco. Cioè sì, potrebbe essere compito dell'arbitro che schiacciare il bottoncino dell'orologio. Però lì bisogna cambiare anche un po' i regolamenti, credo. Ma lì il regolamento non è il caso. Però sono d'accordo con il fatto che poi alla fine stiamo parlando di 5, 6, 7 minuti. In fondo già il recupero. Però una variabile. Ah no, ma Juventus ha avuto 6 minuti di recupero. 6 minuti. Alla fine ci sono delle partite che durano qualche minuto in più. Non mi sembra, sono d'accordo. Sì, ma non bisogna avere paura di partite che durano tanto. Bisogna avere questa paura assurda che poi chissà cosa succede se una partita dura 110 minuti. Tanto già durano più o meno 100 le partite. Fiano Pieri, per chiudere. Ma sì, io chiariamo, sono favorevole alla VAR. Sono un po' meno favorevole alle partite che durano, che si allungano. Ecco, in questo non sono d'accordissimo con Cruciani in questo caso, perché secondo me il regolare svolgimento del gioco è importante, il fluire del gioco. Ora è offline e che ci studino tutte le casistiche opportune per velocizzare il più possibile. Poi se ci dobbiamo fermare, e qui sono d'accordo con Cruciani, per 2 minuti su un episodio, ben venga, ci fermiamo e ripartiamo con l'episodio corretto. Infatti io di quello parlo, cioè non bisogna avere paura di interrompere il gioco per prendere una decisione più razionale. È evidente che non si può prendere una decisione più razionale su delle piccole cose, bisogna inquadrare il tutto in maniera beh, che questo è chiaro. Non è che si può interrompere la partita dice per decidere se è rigore o no su una spintarella, perché altrimenti non si finisce più. Quello mi pare evidente. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie Tiziano Pieri. Grazie a voi. Grazie. Te che fai, Giuseppe, giusto per quarto d'ora adesso? Eh? Resto un quarto d'ora. Resti un quarto d'ora, benissimo. Allora, borsa, torniamo. Tutti convocati. Venerdì 20 gennaio 2017. Radio 24 vi porta alla cerimonia di insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento in diretta, all'interno di Focus Economia, pochi minuti prima delle 18. Al portico est del Campidoglio si rinnova una tradizione iniziata quasi 2 secoli fa. I love this country. Thank you very much. Venerdì 20 gennaio alle 17:50 su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Ancora un quarto d'ora di Giuseppe Cruciani qui con me in studio, Pierluigi Pardo al telefono, per rispondere anche e soprattutto agli ascoltatori, oggi intervenuti numerosissimi, ma grossi dubbi non ne avevo quando si toccano questi argomenti. 800240024 numero verde. Poi diceva giustamente Giuseppe, in una partita in cui la Juventus ha avuto alcuni episodi sfavorevoli contrari, ma non si è lamentata. No, ma infatti non c'è da lamentarsi, perché la Juventus è stata favorita per il fatto che Allegri non è stato squalificato. A parte che la squalifica o meno di Allegri cambia poco sul campo, ovviamente ci sono squadre che hanno vinto tranquillamente con il proprio allenatore in tribuna senza nessun problema. Né hanno avuto, né credo che il quarto uomo abbia avuto un senso di sudditanza nei confronti di Allegri che magari non avrebbe avuto nei confronti di Zego o di Gasperini. Semplicemente il quarto uomo ha ritenuto quella aggressione verbale, anche un po' fisica, da parte di Allegri non... Ma io sono, guarda che da questo punto di vista sono particolarmente dalla parte grave di da richiamare l'arbitro. Sono dalla parte di Pierluigi, il grande arbitro, quello che qualche volta, tenuto conto del momento della partita, si gira anche dall'altra parte. Sì, se non che poi c'è Massimo Oddo l'altro giorno, tra l'altro prima che succedesse il gioco di Allegri, che si lamentava del fatto che possa esistere una disparità di trattamento tra grandi e piccole. È un concetto di sudditanza, se vuoi, abbastanza normale nella vita, nel senso che insomma, se uno va a cena con Obama, probabilmente ha un pochino più di emozione e di soggezione che se va a cena con me. E quindi è ovvio che sia più impressionato, e sia più benevolo e sia più ben disposto. E allo stesso modo, probabilmente esistono disparità di trattamento abbastanza, la famosa sudditanza, quello che tante volte Luis Tito Suarez pensò di antichità, che ci racconta che finché giocava all'Inter, nella grande Inter, lo chiamavano il signor Suarez, poi andava alla Sampdoria, diceva alzati e gli davano del tu. Cioè, questa è una cosa che racconta lui e che in qualche modo però non mi sorprende più di tanto. Però ripeto, l'episodio è avvenuto, le motivazioni sono chiarissime della mancata squalifica, nel senso che chiaramente nel referto non c'è un riferimento per quello che dice giustamente Giuseppe, cioè che se l'imperatore avesse scritto che era stato insultato si sarebbe scavato la fossa, no? avrebbe in qualche modo riconosciuto il suo errore. Sì, certo, si sarebbe contraddetto rispetto a quanto è successo, è stato il suo atteggiamento in campo. Sì, quello per sì. Quello che abbiamo visto, Allegri probabilmente la squalifica la meritava alla fine di una partita nella quale sicuramente la Juve non è stata. Beh, fammi sentire Carmine, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, io volevo parlare proprio di questo episodio di Allegri, dicendo solo questo. Ci stiamo adesso scandalizzando della questione della mancata squalifica, però non so se vi ricordate un Udinese-Roma dove Totti per 3 volte mandò a quel paese letteralmente Rizzoli, sì, ed era proprio a fianco Rizzoli. Ma che c'entra questo? Cioè... No, anche in quella circostanza Totti non fu espulso, diciamo, quindi... E come diceva Pierluigi poc'anzi, che c'è un po' di sudditanza psicologica per queste grandi squadre, perché se un Colantuono a Bari manda qui il guardalinee come ha fatto Allegri, secondo me viene squalificato. Questo non lo so, no? Guarda, io dico semplicemente una cosa. Tra l'altro, nessuno qui ha chiesto la squalifica di Allegri. Cioè, qui non stiamo parlando della squalifica. Per esempio, Inzaghi è stato espulso, ma non è stato squalificato. Certo. Per cui non è che per forza l'espulsione di un arbitro porti alla squalifica. Qui abbiamo sottolineato sin dal primo giorno che l'aggressione verbale e pratica e anche un po' fisica di Allegri, molto forte, molto vigorosa di Allegri nei confronti del quarto uomo alla fine della partita con la Fiorentina, andava quantomeno segnalata da parte del quarto uomo all'arbitro. Poi l'arbitro prendeva le decisioni che doveva prendere e successivamente il giudice sportivo prendeva le decisioni che doveva prendere. Punto e basta. Ma il problema complessivo, tra virgolette filosofico, sta ancora una volta nella disparità fra quello che vediamo noi a casa con 18 telecamere e quello che succede in campo. Sì, ma in questo caso, che, diciamo, in questo caso chiaramente che il liberatore si è reso conto mi sembra abbastanza normale, no? Cioè, fare un comportamento. In questo caso le immagini valgono, quello che abbiamo visto vale quello che è successo sul campo. Però è anche vero che per esempio il famoso labiale, no, sul labiale dice, siamo sul labiale dice mentre va via, no? E quindi sì, siccome lo dice mentre va via, si può anche venire il sospetto che realmente di liberatore non l'abbia sentito, no, magari ha detto che cazzo invece di testa di, ma cioè, no? Cruciani aveva la possibilità di dire questa parola, no, vabbè, ragazzi, che c'entra, ma quello, quello che è successo in questo caso, sto dicendo, posso fare un attimo sul discorso di Napoli, sull'ipersensibilità presunta vera, però è un'ipersensibilità che nasce pure da quello che tante volte si sente negli stadi, perché poi insomma non credo sia piacevole. Poi ci sono napoletani smaliziati, per esempio Raffaele Auriemma ci ha raccontato che ormai lui quando ci sono quei cori lì non li ascolta, non gliene frega niente, li considera puro folklore, ci si fa non fa una risata, ma insomma si gira dall'altra parte. Non è la stessa cosa, ecco. Pier, però anche gli juventini non gradiscono ogni volta che vanno in uno stadio a essere insultati. No, dovrebbe succedere la stessa cosa. Però che Napoli, io lo dico, non credo di essere di parte, al di là, però insomma Napoli è una città che comunque spesso è stata offesa, è stata vilipesa, è stata vittima di comportamenti denigratori a prescindere, di etichette a prescindere. Questa cosa secondo me esiste, e in qualche modo se noi guardiamo anche quello che è successo in questi giorni, cioè questa follia letteraria collettiva di una città che per tre giorni torna a 30 anni fa e abbraccia Maradona, è questa roba qui, è di una città che grazie a Maradona ha capito che poteva vincere, che grazie a Maradona nel calcio si è rispettato dopo anni nei quali non aveva vinto nulla, e che troppo spesso in maniera secondo me sbagliata e quantomeno ipocrita e generalizzante viene utilizzata veramente per un motivo. Poi che a Napoli ci siano dei problemi è ovvio, nessuno discute, non che da altre parti la Svizzera, no? No, cioè, no, questo è probabilmente neanche la Svizzera Io non mi ricordo quante giornate di squalifica costò a Emiliano Mondonico quella sedia alzata al cielo. Ciao Mondo. Buon pomeriggio a tutti quanti. Una giornata di squalifica che non ho ancora scontato e penso che non sconterò mai. Però mai. Ma la sedia al cielo dopo l'hanno vista in televisione, che cavolo ne sapevano quelli lì. Vuoi mettere la soddisfazione che quella squalifica non l'hai scontata e probabilmente non la sconterai, anzi se ti offrono una panchina di un club che, cioè, non lo fare, perché non bisogna avere la soddisfazione di scontare quella squalifica. Credo che sia passata in prescrizione, peraltro, dopo tanti anni. No, non lo so, ma sai, dopo loro la tirano fuori, poi ti hanno partita persa, no. Lasciamo, dai, meno male, sono uno dei pochi che non ha scontato la squalifica in UEFA. Vi devo dire due idee, secondo me. Cioè, il fatto dei cori contro, io penso che nel calcio la più grande offesa sia l'indifferenza. Quando invece, bene o male, in maniera educata o maleducata, ti tirano contro, vuol dire che conti qualcosa. Vuol dire che se la fanno addosso. Che sei vivo. Più te ne dicono e più hanno paura. Perciò non dobbiamo assolutamente. Senti, ma tu l'atteggiamento di Allegri nei confronti del quarto uomo, come lo vedi? Adesso capisco. Adesso vi spiego una cosa che molto mi mette. Non ti mettere troppo nei panni dell'allenatore. Io mi metto nei panni di chi ha vissuto questo. Allora, l'arbitro è collegato direttamente sia con i guardialini che col quarto uomo, con le cuffie. E perciò se io vado dal quarto uomo e gli dico l'arbitro è una testa di cazzo, è chiaro che lui dalle cuffie sente. Se io invece vado dal quarto uomo e gli dico guarda che quello lì è uno che si butta in terra, ci stanno facendo i falli, può darsi che non ti dia un rigore contro, ti dia un rigore a favore. Cioè, secondo me, chi parla col quarto uomo non deve mai dimenticare che sì, parla col quarto uomo, però anche l'arbitro ascolta, anche tutti quanti ascoltano. Non sono così sicuro, cioè tu se parli al quarto uomo, praticamente le tue parole vengono sentite anche dall'arbitro. Forse è chiaro, sono collegati con queste cuffie. Cioè, come fanno magari lo dice a un metro di distanza e non è che si sente. Se gli dice sei una merda, può dirmelo anche a 5 metri, ma ci capisco ugualmente. Dai. Cioè, ecco, c'è quello da dire. Cioè, secondo te non l'ha detto allora, dunque? Dobbiamo no, secondo me l'ha detto, però se io fossi in Allegri sarei più amareggiato che non Gasperini, perché il cioè loro sanno che l'ho detto e non gliene frega niente, perciò vuol dire che non hanno nessuna considerazione di me. Gasperini sì. L'ha detto ed è stato squalificato, ma vuol dire che hanno una considerazione. Io tu sei favorevole o contrario ad una dialettica in campo comunque tra protagonisti e arbitri? Ma esiste no? Questa, cioè, io dico che il grande arbitro è quello che d'accordo con Pardo, quello che si girava da un'altra parte in un momento particolarmente caldo della partita. Ma un grande arbitro è quello che sente attraverso la tuffa quello che succede in tutte le parti del campo, capisci? E perciò è chiaro che non, se un arbitro tutte le volte che lo mandano a stendere e li butta fuori, finisce 3 contro 3 la partita. E invece, bene o male, l'arbitro deve avere quel pizzico di personalità in più nel quale si rende conto che in quel momento non è l'uomo che parla, ma è l'animo, è chiaramente la delusione, la cattiveria, tutto l'agonismo, tutto, l'agonismo, ecco, l'adrenalina, eccetera. Ecco perché penso, perché l'arbitro fa bene a non ascoltare, ad ascoltare per finta di niente, perché ci mancherebbe altro. Però, cioè, scusami, vuol dire, prima dell'interruzione, credo, no? Sì. C'è stata o no, proprio una risposta lapidaria, c'è stata o no disparità di trattamento, da quello che tu vedi, al di là dei referti, tra Allegri, Inzaghi e Gasperini? Sì o no? Ma secondo me no. Cioè, secondo me è chiaro che l'atteggiamento esterno di Gasperini, visto da tutto lo stadio, ha portato l'arbitro a non poter far finta di niente. Perché è come il fallo. Quando il fallo è un fallo, magari un'entrata dove gamba tesa, dove di qui e di là si può discuterne, ma quando uno ti tira la maglia è chiaro che non puoi non dare fallo, perché tutto lo stadio vede la maglia tirata. E perciò io penso che l'atteggiamento di Gasperini è stato punito perché l'ha visto tutto lo stadio. Ma sì, ma perché l'ha sentito il quarto uomo, l'ha sentito l'arbitro, l'hanno scritto sul referto, quindi... L'hanno visto tutti, non puoi far finta di niente. L'atteggiamento di Allegri, cioè, l'hanno visto perché hanno guardato la televisione. Perciò subito, immediatamente, non è che lo stadio si sia accorto di quello che ha detto Allegri, ma sembrava una reazione solita di fronte a determinate cose. Cioè, bisogna anche valutare questo, perché non è che l'arbitro fa una relazione dopo aver visto le immagini televisive. Certo, l'arbitro fa sulla base. Al novantesimo, ed è chiaro che al novantesimo, cioè soprattutto lo fa se il gesto è stato così clamoroso che se ne sono accorti tutti. Certo. Anche i sordi e i ciechi, per modo di dire. Grandissima differenza, secondo me, tra Allegri e Gasperini, e perciò il comportamento della ci fermiamo della, Mondo, stai con noi col quarto uomo. Aspetta, stai con noi, Emiliano, che noi adesso abbiamo il traffico, siamo in ritardo, ma non te ne andare. C'è ovviamente anche Pardo, ci sono Omar e Salvatore. Saluto Giuseppe Luciani, ciao Giuseppe, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Adesso continuano ad arrivare notizie preoccupanti su un fronte che non è calcistico, sentiremo poi nei GR, avrete tutte le informazioni disponibili nel corso della giornata, perché c'è un'agenzia che dice di una nuova forte scossa di terremoto alle 14:34, secondo i dati preliminari da confermare ha avuto una magnitudo 5.1 d'epicentro sempre nell'Aquilano, quindi poi vi rimando al GR subito dopo di noi per informazioni più precise. Intanto Emiliano Mondoni, che è collegato con noi insieme a Pierluigi Pardo. Con voi volevo fare una deviazione da questo discorso, da questo lungo discorso arbitrale in cui Luciano ci ha messo del suo. Sull'Inter, la Coppa Italia conta per quel che conta, ma 6 su 6 l'Inter fa sul serio, 6 vittorie nelle ultime 6 partite. in una squadra che funziona, funziona anche chi è appena arrivato come Gagliardini, funziona anche chi non funzionava mai come era il tanto criticato Condombia, a momenti funziona anche Gabigol, che ieri sera si è visto Pardo. Chi deve parlare? Pardo, volevo sentire Pardo. Allora, guarda, abbiamo fatto il confermone, quindi quella era una scossa del remoto, l'abbiamo sentita anche a Roma alle 14.34, ma al di là di questo metto un abbraccio a chi è più vicino all'epicentro, immagino che sia una giornata complicatissima. E per quanto riguarda temi più allegri, sicuramente l'Inter ha una capacità in questo momento di risolvere le cose, e quando comincia a succedere per tante volte di fila non è un caso. Quindi che l'Inter sia riuscita a rimontare a Udine, si è riuscita a rimontare in casa contro il Chievo, dove onestamente non meritava di passare in vantaggio perché nel primo tempo aveva comunque prodotto tantissimo, che comunque ieri, dopo essersi un po' incasinata la vita, abbia portato il gol del 3-2 con Candreva, cioè, sono tutti segni di una squadra che in questo momento sta bene psicologicamente, ha fiducia in se stessa, ha uno stellone positivo. Il resto, perché ieri non aggiunga altro, cioè Pioli comunque ha dato un maggiore equilibrio a questa squadra, ancora qualche amnesia c'è, non a caso i numeri dal punto di vista dei gol subiti sono buoni ma non esaltanti dell'epoca Pioli, però è una squadra, ma guarda che l'Inter adesso, l'Inter tolto l'esperienza di De Boer, sarebbe in testa la classifica. Sì, numeri alla mano, numeri alla mano, a 22 punti, uno più della seconda, quindi numeri alla mano, sì. Questo è oggettivo. Io non credo in un mondo normale che Roma e Napoli si lasceranno sorprendere, però è sicuramente un campionato che è interessante. Adesso quante sono interessanti anche per la testa dopo la sconfitta della Juve, ma ci sono almeno 5 realtà che sono competitive, sono competitive di altissimo livello, e il Milan, nel quale credo un filino meno, però comunque è lì, quindi insomma è una bella sfida. Credo che Roma e Napoli abbiano il vantaggio, è come se avessero il servizio a tipo di Inter, non fanno grandi errori, vero, che non arrivano. Vero. Lascio la chiusura di Emiliano Mondona, come mentre ti saluto Pierluigi, ciao, domani. Ciao. Mondo, la vedi come Pardo? Io la vedo che l'Inter ha grandissime difficoltà, non solo che deve perdere tutte, ma devono perdere gli altri. Cioè è lì il grande problema, Sì. quando la tua vittoria non dipende solo da te, ma dipende anche dalla sconfitta degli altri. Sapesse quante volte io ho lottato per non retrocedere, ed è chiaro che nonostante facessi risultati ho dovuto retrocedere perché quelli vicino a me non perdevano, certo, ed erano magari un punto avanti, certo. E perciò in questo momento l'Inter deve sperare di vincerle tutte e che gli altri perdano. Diciamo che vabbè, che vivere sperando morì non si può dire, sì, però però questa è la verità, è la realtà vista ieri sera. È chiaro che questo Bologna, magari con in campo tante alternative, nel secondo tempo ha creato problemi, ha creato difficoltà, e perciò bisogna stare attenti, perché sennò dopo arrivano altre delusioni. L'Inter sta facendo un'ottima, deve abbassare la testa e alzarla soltanto al traguardo finale e vedere dove è messa. Grazie Emiliano, ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio. Adesso andiamo con il giornale radio, subito dopo torniamo e vi faccio una domanda precisa: ma per quanti soldi emigrereste in Cina? Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Ha raggiunto Marco Benignazzo, che è in procinto di lasciare il Sole 24 Ore per la Gazzetta dell'Aquila Orba, giornale appena fondato, dove lo ricopriranno d'oro in cima a una montagna. Magari ci andresti. Dai cinesi? Sì. No, da chiunque. Da chiunque ti seppellisca dal mondo di vertice in cui vivi, dal punto di vista giornalistico, a un'entità astratta. Un'entità che astratta, magari ti offre un sacco di soldi, ma che però delle prospettive, magari per un campionato però secondario. Saresti, tu giornalisticamente in pensione, no? Faresti un altro mestiere. Sì, forse. Però sai, ci pesi sono. No, sì, se mi dessero un assegno alla Tevez proporzionato, 2 anni, 3 anni, così. Poi contratto a tempo determinato, 3 anni da tempo insomma, prendi 2 anni di aspettativa, ho capito, lasciamo stare. È un po' il libro dei sogni. Omar, buongiorno. Buongiorno. Che lavoro fa lei? Io faccio il tassista. Il tassista. Andrebbe a fare il tassista a Pechino per 8 volte il suo stipendio attuale? Sì, ma tanto io non faccio il calciatore. Il calciatore, come ha detto Robin, possono dimenticarsi quelli che giocano in Cina di essere visti o rivisti. Robin ha detto una cosa vera. Ormai la Cina è il cimitero degli elefanti. È come la terza categoria di una volta. Però sono elefanti giovani, eh? Perché Oscar è un giocatore molto giovane, sì, Kalinic ha 29 anni. Eh? Sì, anche Witzel. Certo. Sì, ma forse vincere qualcosa, forse. Un calciatore vuole vincere qualcosa. Se no faceva il giocatore di poker, che secondo me, e non il calciatore di calcio. Cambia mestiere. Sì, certo. Senta, io la chiamo per Allegri. Sì. Allora, io dico una cosa. Non si vede tutto il labiale e tutta la situazione che è successa, perché se si guarda bene, prima lui con il quarto uomo scherzano, e quando lui gli dice sì, ma a me mi riprendi sempre, e con Paolo Sosa vai a braccetto, lui e gli parte la parola, e il quarto uomo è sbagliata, e il quarto uomo dice hai ragione. Scusa, hai ragione, scusa. Lo dice il quarto uomo. Non lo so, sì, ma lei era lì? Io vi chiamo da lunedì. L'ho registrata e l'ho rivista esattamente un'ora fa. Perché sapevo di questa squalifica, sapevo che c'era il signor Cruciani, sapeva tutto. Lei sa tutto. No, non so tutto. Però io dico una cosa. Se il quarto uomo mi dice... Stai al tuo posto, ok, sto al mio posto nella riga, e va dal quarto, l'altro allenatore, parla, l'altro allenatore esce dall'area tecnica, e poi mi dice a me, torna al tuo posto, e io gli rispondo, sì, ma lui gli fai fare quello che vuoi. Sì, abbiamo capito il senso, quindi lei ce l'ha illustrato con dovizia di particolari, il fatto sta che sul referto il quarto uomo non ha scritto nulla, e dunque Allegri non è stato... punito dalla giustizia sportiva, come d'altra parte non poteva essere, non essendoci scritto nulla, come abbiamo detto. Lorenzo? Sì, salve, sono Lorenzo da Vicenza. Io volevo parlare del discorso della prova in campo, la migliore in campo. Proprio voi, tempo dietro, avevate detto in uno sport americano, se non mi ricordo, sul basket, l'hockey, che ogni squadra tipo aveva 3 possibilità di richiedere la possibilità di football americano, sì. La prova televisiva. Questo sarebbe una soluzione per il discorso del movimento in campo, secondo me. Guardi, va bene tutto, l'importante è regolamentare la faccenda da ogni punto di vista, e con un regolamento che non si presti a 1000 interpretazioni, quali sono anche quelle degli arbitri. Cioè, io per ritornare a Bomba apprezzo molto l'arbitro che in certi momenti della partita insomma accetta anche il dialogo con i giocatori, magari pure duro, e poi fa finta di niente per non influire sul gioco. Ma queste sono questioni personali, poi vedremo tutto, vedremo la VAR, vedremo il tempo effettivo e vedremo la Cina tanto in televisione presto, Marco, no? Beh, devo dire che c'è un doppio processo in atto, quello del rafforzamento dei club della China Super League, per quanto vedremo poi ci sarà questo intervento annunciato dall'amministrazione generale dello sport cinese per calmierare di stipendi eccessivi. Sarà possibile o se ne faranno un baffo i club cinesi? Beh, diciamo che l'effetto principale si avrà sulle nuove norme per il numero di stranieri, quindi in campo ce ne potranno essere solo tre e questo spingerà magari ad avere meno stranieri. Comunque i soldi che dovranno girare saranno comunque alti, perché per convincere un giocatore che, come ricordavi tu, magari nel pieno della carriera come Oscar a spostarsi verso la Cina, ecco, bisognerà staccare assegni molto molto grandi. E come pare farà in questi momenti Kalinic, perché abbiamo anche una, tra l'altro facciamola sentire la dichiarazione del direttore sportivo della Fiorentina, che ha detto che insomma siamo alle carte bollate, siamo alle firme dei contratti. C'è questa realtà, una nuova realtà, chi presenta delle cifre fuori senso, fuori mercato, bisogna essere preparato e noi siamo preparati per qualsiasi eventualità. Questo è Freitas, direttore tecnico della Fiorentina. Un grandissimo affare economico per la Fiorentina, Kalinic preso a 5 milioni, sarà al bilancio in questo momento 2-3 milioni, quindi mega plusvalenza, sì, quasi enorme. 40 milioni. C'è da dire che quando tu prima citavi il fatto che magari in passato chi andava in questi campionati, no, un po' esotici, andava un po' a svernare il cimitero degli elefanti, sono espressioni che si usa comunemente. Ecco, in questo caso io starei un po' più attento, sarei un po' più cauto a fare certe dichiarazioni o a avere questo tipo di considerazioni, perché anche il modello di organizzazione del calcio mondiale sta cambiando. E per esempio una delle cose che farà Infantino, oltre ad allargare il mondiale a 48 squadre, sarà quello di riformare la ex Coppa Intercontinentale, quello che un tempo si giocava semplicemente tra chi vinceva la Libertadores, la Champions League. Ecco. Oggi è un torneo con più squadre che si gioca a fine anno, ma fondamentalmente diciamo legato poi alla sfida tra la sudamericana e l'europea. Ecco, da qui a un paio d'anni avremo un campionato del mondo per club che si giocherà ogni due anni con 24 squadre, ci saranno più europee chiaramente, ma ci saranno anche più squadre asiatiche, e sarà un torneo che sarà il mondiale proprio giocato negli anni dispari, sì, per non andare incontro, sì, a un conflitto insomma con invece di tornei, sì, però, nazionali. Marco, allora questo è un virus cinese impazzito introdotto nel corpo del calcio, perché gli inglesi la buttano, lo scrivi tu peraltro sul tuo blog, sugli stadi nuovi, anche fatti in prete furia, cioè di corsa per aumentare gli introiti. Inglesi che sono da anni abituati a venire a fare shopping in via Monte Napoleone, certo, o però gli inglesi in via Condotti arrivano qui, assolutamente possono permettersi degli ingaggi che, esempio fra tutti, Pogba, la Juventus non poteva offrirgli quei soldi. Ma i cinesi sono un'altra cosa. Sono senza regole. Per sono, esempio, la stessa... sono senza regole. Pellè mi pare che guadagni quanti guai? 15 milioni. Allora, gli inglesi che hanno fatto? Hanno introdotto due anni fa una sorta di fair play interno, per cui, senza ora dilungarci troppo su questo aspetto, ma fondamentalmente hanno una sorta di salary cap, che è un tetto agli ingaggi. Quindi fatto il monte ingaggi, tu puoi aumentarlo solo di poco anno dopo anno, se non con i maggiori ricavi puoi avere dall'area commerciale o dagli stadi, non dai diritti TV. Cioè non puoi dilapidare tutto quello che arriva dai diritti TV superando, sì, diciamo, questo, sì, monte ingaggi. Sì. Questo che significa? Che è vero che da quest'anno praticamente l'ultima inglese in termini di diritti TV nazionali guadagnerà quanto la Juve, 100 milioni all'anno grosso modo, ma non potrà spenderli tutti per aumentare a dismisura il monte ingaggi. E questo crea cosa? Quella paura che c'è. Il primo a lanciare l'allarme è stato Arsène Wenger, che c'è in Inghilterra, sul fatto che diventerà per loro sempre più complicato trattenere i grandi giocatori, perché non potranno offrire, pur essendo il campionato di calcio più ricco del mondo, gli stessi soldi dei cinesi. Quindi è evidente che una distorsione viene creata, ma è una distorsione che alla fine la FIFA accetterà, perché Wanda è diventato sponsor della FIFA ed è quello che paga di più. C'è un percorso. C'è un mercato da 1 miliardo e mezzo di persone, di 1 miliardo diciamo, di appassionati, capito, del calcio, tu puoi, che va conquistato. Qui ci troviamo di fronte a un fenomeno totalmente nuovo, no? Per cui non è più Chinaglia. Non erano i cosmos degli anni 70-80, no? Pelé e Beckenbauer, che erano chiaramente giocatori che avevano finito la loro carriera, oppure Cruyff stesso. e andavano in America grosso modo a fare gli ambasciatori o i semafori, se preferisci, ben retribuiti. Qui si tratta di giocatori che sono sulla cresta dell'onda, ad esempio Diego Costa, che ha titolarissimo nel Chelsea di Conte, al centro del villaggio del Chelsea di Conte, comincia la Premier League, certo non guadagna quattro noccioline, però gli offrono talmente tanti soldi che di fronte a quelli non puoi dire no. Non è nemmeno il fenomeno Eto'o, che aveva già vinto tutto, aveva 31 anni e andò a seppellirsi calcisticamente ai confini dell'impero ex sovietico per poi riapparire miracolosamente. Peppe da Napoli, poi chiedo a Luca Marchetti quanto vorrebbe aumentato il suo ingaggio, dovesse essere ingaggiato insieme a Pardo da Telepimpa, che mi sono inventato io ieri. Peppe, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Napoli, è la prima volta che chiamo, faccio complimenti per la trasmissione. Grazie. Prima avete parlato del tempo effettivo, un'osservazione a proposito. Il tempo effettivo sarebbe ideale, però al momento non è molto possibile. Mi chiedo, qualora il gioco venga interrotto per un infortunio di giocatore, onde evitare perdite di tempo, perché l'arbitro fa in modo che il cacciatore infortunato si faccia un bei 10 minuti fuori per prendersi? Ma tempo effettivo è un'altra rivoluzione anche qui da prendere con le pinze. Io sono più per l'arbitro che schiaccia il pulsantino sul cronometro che porta al polso e cronometra e dà il tempo di recupero che vuole, fossero anche 6-7 minuti. Al tempo effettivo ci arriverei con granus salis in uno sport fluido, se mi permettete, come il calcio. Non dico liquido perché sennò Pardo si arrabbia. Luca Marchetti, buongiorno, da Sky. Ciao a tutti. Allora, è arrivata per te un'offerta da Telepimpa, Pimpa sì. Intesa, ti ricordi, no? Il cartone animato, il cagnolino sì, con sì. I pua rossi, la sì. Stanno fondando sulla cima di una montagna e vorrebbero Luca Marchetti e Pardo in esclusiva con ingaggio decuplicato, ci vai? Sì, subito. Un attimo di esitazione, pronto per la Cina Luca Marchetti? Ma certo, il cinese non so se neanche dovrò impararlo, mi farò mettere un traduttore, dai, faranno anche soldi per il traduttore. Beh, lì di calcio mercato ne avrebbe da parlare Luca. Appunto. No, senti Luca, come trovi questo virus iniettato nel corpo del calcio europeo? Cioè arriva. Allora, Kalinic, sai che meglio di me che siamo alle firme, no? La Fiorentina farà una plusvalenza pazzesca. Kalinic ha 29 anni, guadagna 2 milioni più bonus, correggimi se sbaglio, in Cina 12-14. Ora che fai? Sì, io so un po' meno, ma il concetto non cambia per Kalinic. Ma io credo questo, è una mia idea assolutamente personale. Non ci siamo interessati né tanto meno preoccupati quando toccava a noi spendere tanti soldi per prendere giocatori, ci siamo un po' preoccupati quando toccava agli inglesi intervenire sul mercato in maniera molto pesante, ci preoccupiamo adesso quando i nostri campioni, intesi sono nostri come europei, se ne vanno a giocare in Cina. Fa parte del mercato globale, forse dobbiamo soltanto accettarlo. Se i cinesi hanno i soldi per poter fare questo tipo di operazioni, io credo che la FIFA non possa in qualche modo intervenire, perché altrimenti sarebbe dovuto intervenire, che so, in favore del Sud America, che è stato saccheggiato negli ultimi 30 anni perché non riuscivano più a tenere i giocatori forti e perché magari non vincono più l'intercontinentale. È un discorso di movimenti di capitale, Marco Brinazzi ne sa assolutamente molto più di me sui motivi e sulle ragioni per cui la Cina è diventata una potenza economica. In realtà sai che ci stanno pensando loro internamente a cercare di calmierare un po' questo tipo di mercato, perché giustamente l'obiettivo della Cina è quello di crescere come movimento calcistico al suo interno, favorendo sì l'importazione di giocatori importanti, di giocatori decisivi, ma allo stesso tempo far crescere anche quelli interni. Quindi sono in discussione in questi giorni. E però da un lato è solo una questione di banale grano e loro arrivano con un carico pieno, certo, pieno di verdoni, e dall'altro lato si tratta di espandere il calcio cinese, e questa la vedo come una manovra un po' più a lungo termine. Certo, assolutamente sì. Assolutamente. Detto questo, comunque c'è un numero limitato di giocatori che possono andare in Cina. Adesso io sinceramente non lo so e faccio anche brutta figura quante sono le squadre nella Serie A cinese. Sono 16 squadre. 16 per 5 al massimo possono prendere questo numero di giocatori extra cinesi. Mettici tutto il mondo, non è che vengono a portar via il pallone in Italia o in Inghilterra. Quelli più sensibili al fascino del soldo sicuramente possono essere attratti. Tu prima facevi il ragionamento di Diego Costa, va benissimo anche quello di Kalinic. Non so se tutti sono disposti ad andare in Cina, perché alla fine anche i grandissimi campioni forse preferiscono vincere dove ancora la competizione vale qualcosa, cioè è una competizione vera. Se vai in Cina comunque sì, diventi super miliardario, ma probabilmente non dico che finisci di giocare, ma quasi. Beh sì, il discorso c'è, è questo, ancora, vai a fare ancora, fai un altro mestiere. C'è il progetto per esempio di fare questa Coppa del Mondo per club a cui accennavo prima, che potrebbe dare, diciamo, una vetrina, no? A chi vince, chiaramente parliamo di un torneo ogni due anni, quindi non di qualcosa che può giustificare dal punto di vista sportivo il fatto di emigrare nella China Super League. Però noi ci troviamo di fronte a un movimento calcistico che vuole crescere con obiettivi precisi, peraltro nella riforma che faranno, per cui si potrà schierare solo 3 dei 5, si dovrà per esempio obbligatoriamente mettere in campo un under 23 cinese. Il problema è che sta crescendo anche il mercato interno, per cui anche i pochi buoni giocatori cinesi che cominciano ad affacciarsi alla ribalta vengono scambiati a 10, 15, 20 milioni. Consideriamo, insomma, che 20 milioni in questo momento, no, è una cifra importantissima per la Serie A. È raro vedere qualche trasferimento. Abbiamo visto Gagliardini, si è discusso molto anche sulla formula, perché non si poteva da parte dell'Inter, problemi di fair play finanziario, pagare tutto e subito, fare tutto l'acquisto. Questi arrivano, ti mettono là 45 milioni, insomma, quindi ragionare. Io credo una cosa fondamentale, che noi dobbiamo accettare questa situazione, le società italiane dovrebbero sfruttare al massimo questa opportunità, ma dovrebbero sfruttarla come? Certamente evitando magari di fare queste ricche plusvalenze e poi mettersi in tasca i soldi, magari investendo questi soldi nelle strutture. Sì. Per esempio l'Atalanta ora avrà la possibilità di comprare lo stadio, ci sarà il bando proprio in questi giorni, si avvia l'Atalanta a fare 100 e passa milioni di plusvalenze. Ebbene, con quei soldi, ma la famiglia Percassi insomma è molto orientata da questo punto di vista, fare uno stadio all'inglese come nei progetti, che permetta anche di far crescere le risorse del club, può dare una prospettiva del tutto diversa. Ma questo è chiaro, cioè entrare nel nuovo millennio, cosa che pochissimi dei nostri club hanno finora fatto. Luca, invece, per quanto riguarda il mercato nostro poveretto, senza qui va di moda il mercato a impatto zero, che succede? Ho letto una fila di giocatori d'antan che potrebbero andare al Pescara. Sì, c'è l'ultimo di cui si sta parlando con la Juventus, è Mattiello, ma in realtà quello un po' più famoso, al di là del fatto che purtroppo per Mattiello è diventato famoso per l'infortunio, è Montari, che ieri è sbarcato a Pescara. Montari. Non ha voluto parlare perché vuole far parlare il campo. Questo credo che sia un buonissimo atteggiamento, almeno da un punto di vista mentale, per chi vuole rimettersi in discussione. Per il Milan ti dico che ancora non si è sbloccata la situazione De Lofeu, perché l'Everton continua a chiedere al Milan un prestito con diritto di riscatto, addirittura con obbligo, e il Milan non sa più come dirgli che non può farlo il prestito con diritto di riscatto, però con obbligo, intanto perché c'è dentro il Barcellona che avrebbe una recompra, eccetera eccetera, e poi perché comunque il mercato del Milan, come sapete benissimo, deve essere a saldo zero. L'ultima operazione che si chiuderà in giornata e che è stata definita pochissimo tempo fa è Faragò al Cagliari. Quindi andiamo su nomi grossissimi. Però dalla Serie B cominciano a diventare diversi i giocatori che vengono presi anche a gennaio dalla Serie A. Sì, è comunque un buon segnale, secondo me, di crescita. Da una parte è un segnale bisogna fare di necessità virtù. Dipende da dove vanno, perché io resto dell'idea che, insomma, se un giocatore viene inserito, come faccio l'esempio di Gagliardini rapidamente, in un contesto che comincia a funzionare, vedi che lo prendi, lo metti in campo e quello subito rende. In altri contesti il discorso è un po' diverso. Luca, ti abbraccio, ti ringrazio. Ciao Luca. Saluto e ringrazio anche Marco Beninazzo. Allora, pronti per la Cina? Abbiamo le valigie pronte. Partiamo alle, a che ora abbiamo il volo? Fine trasmissione. Ciao ragazzi, a mai più. Gianmarco Ferronato in regia. Alessandro Marco Tulli, autore di questo programma. E poi c'è anche Edoardo Lavezzari in redazione. Ciao.